questa mattina Paolo Picone. Sì, buongiorno. In questo momento ci troviamo a Posillipo, uno dei quartieri della Napoli Bene, sempre affollato dai turisti che vengono qui per ammirare il panorama. Oggi i turisti ci sono, ma anziché fotografare il Vesuvio e il Golfo di Napoli, riprendono i cumuli di rifiuti alti fino a 2 metri, sparsi dovunque. Napoli infatti sempre più sommersa dai rifiuti. Stamattina lungo le strade della città ci sono 2.900 tonnellate, domani la situazione potrebbe nettamente peggiorare. Se oggi non si riuscirà a conferire, si arriverà a una quantità di 3.600 tonnellate di immondizia non raccolta. Nel centro storico, come la scena non cambia, cumuli enormi dovunque. L'assessore all'igiene del comune di Napoli parla di una situazione molto grave e ha allertato l'ASL dell'ARPAC per l'eventuale allarme igienico-sanitario. Il punto è sempre lo stesso: assenza di discariche. A Napoli c'è solo quella di Chiaiano, dove il conferimento è di circa 700 tonnellate al giorno e di conseguenza la saturazione degli impianti SIR di Giugliano e Tufino, dove sversa Napoli. Un dato su tutti: stamattina all'impianto SIR di Giugliano si è riusciti a scaricare un solo mezzo proveniente da Napoli, vale a dire circa 12 tonnellate, 6 complessivamente i mezzi a Tufino. La gente è esasperata, io andrei ad ascoltare altre testimonianze raccolte in strada e poi in linea allo studio. Napoli è la città più bella del mondo, peccato solo per la spazzatura. Io ho 83 anni e sto in mezzo alla strada. Non si sente la puzza. Si sente la puzza. Beh, credo che sinceramente sia un problema che riguarda la provincia, perché non sono stati attuati dei provvedimenti, cioè sono stati attuati dei provvedimenti provvisori, in modo tale da togliere i rifiuti delle strade principali per poi farli ricomparire dopo 2 mesi. Così dicono i napoletani. E dicevamo, è intervenuto anche il Quirinale. La Presidenza della Repubblica, si legge in un comunicato diffuso questa mattina, non ha ricevuto e non ha quindi potuto esaminare né prima né dopo la riunione del Consiglio dei Ministri di giovedì 18 novembre il testo del decreto legge sulla raccolta dei rifiuti e la realizzazione del termovalorizzatori in Campania. Il decreto rifiuti, ricordiamo, ha ricevuto il via libera del governo giovedì e prevede i poteri commissariali al Presidente della Regione Stefano Caldoro. Una vicenda in cui la nota del Quirinale arriva in un momento in cui la vicenda Carfagna e la crisi dei rifiuti si intrecciano. Ben oltre l'epiteto da teatro napoletano rivolto ad Alessandra Mussolini, la presa di posizione del ministro Carfagna agita le acque nel Popolo della Libertà. Maurizio Lupi sottolinea che il ministro delle pari opportunità pone una questione importante per il partito. Lo stesso dice il presidente della regione Campania Stefano Caldoro durante Mattino 5. Carfagna è un ottimo ministro di un governo che sta operando molto bene, però è anche un'energia e una risorsa per la Campania, quindi ha posto dei problemi interni al nostro territorio, è giusto dargli una risposta. A sostegno di Carfagna anche il ministro degli esteri Frattini, che invita Berlusconi ad ascoltarne le rimostranze, e il coordinatore del PDL campano Nicola Cosentino a lasciare l'incarico. Frattini riferisce anche di minacce di parlamentari vicini al coordinatore campano di non votare la finanziaria se Berlusconi non lo avesse sostenuto nello scontro con Carfagna. Ma Edmondo Cirielli, presidente della provincia di Salerno vicino a Cosentino, intervistato da Alessandro Milan durante 24 Mattino, minimizza l'episodio e spara a zero contro il ministro delle pari opportunità. È strano che lei non sostenga me, che sono un ufficiale dei carabinieri, e sostenga invece il sindaco di Salerno, che ha invece avuto decine di incariche. Chissà come mai, se forse non dipende dal fatto che il capo della segreteria del ministro Carfagna è un costruttore molto impegnato a Salerno città. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi a Napoli arriveranno gli ispettori europei per fare il punto sulla situazione. Ma intanto c'è anche un altro mal di pancia in vista per il governo e per il premier Berlusconi. Una nota di Futura Libertà ha aperto un'altra guerra, una guerra dei simboli. Elisabetta Fiorito. Eh sì, proprio così, è un nuovo episodio della saga tra PDL e Future Libertà che si scatena adesso sul simbolo del PDL. La sfida è del capogruppo dei Finiani Italo Bocchino. Silvio Berlusconi non può usare il simbolo del PDL in quanto è in comproprietà con Fini. È la risposta alle voci che danno il cavaliere in procinto di modificare nome o simbolo in vista delle elezioni. Bocchino reagisce al fatto che Berlusconi vorrebbe mettere sotto il simbolo il vero centrodestra per evitare di problemi giudiziari, spiega il capogruppo di Future Libertà alla Camera, gli comunichiamo che dal 17 maggio scorso il vero centrodestra è stato registrato da noi all'ufficio Marchi e Brevetti di Roma. La risposta del PDL arriva da Daniele Capezzone: penso da tempo che le provocazioni di Bocchino siano un boomerang per Fini e Futuro e Libertà, e anche Sandro Bondi reagisce: le provocazioni di Bocchino hanno i toni da misere discussioni condominiali. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie anche ad Elisabetta Fioritto. E un altro monito è arrivato questa mattina da Napolitano: le sfide che il paese ha di fronte, ha detto il Presidente della Repubblica, impongono priorità anche nell'agenda politica e parlamentare, ed uno spirito di condivisione e senso di responsabilità. Occorre, dice il Quirinale, un clima di serietà. Voltiamo pagina, il maltempo non ha fatto fortunatamente altri danni in Veneto, ma si sposta invece verso sud ed è allerta per il Tevere. Laura Bettini ha contattato la sala operativa della Protezione Civile di Roma. Stiamo monitorando il Tevere e tutti gli allagamenti che ci sono li stiamo controllando. Quindi predisponendo eventuali piani per la notte, sì, se necessario. Sì, per la notte si prevede l'onda di piena questa notte verso mezzanotte. Al momento però in città non ha fatto allagamenti. Allagamenti, alcuni allagamenti, ma sono contenuti, stanno sotto controllo con le associazioni di volontariato del nostro personale. Quali sono le aree in cui il Tevere è più pericoloso a Roma? Beh, le aree più pericolose è tutto il Tevere, tutto. Per il fatto dei barconi che sono ormeggiati, abbiamo mandato per il rafforzamento degli ormeggi, per i senza fissa dimora che stavano sul Tevere sono stati evacuati questa notte, perché già da stamattina le banchine sopra i 7 metri si allagavano. Abbiamo chiuso anche tutti i varchi, gli accessi per andare sulle banchine del Tevere. Nubifragi sono previsti in giornata anche in Campania, Calabria e Puglia. Intanto, dopo quella di ieri, un'altra frana ha colpito il comune di Aulla, nella provincia di Massa Carrara, costringendo 3 famiglie a lasciare la loro casa. C'è massima attenzione non solo per il Tevere, ma anche per il Po. Nei prossimi giorni si prevedono livelli idrometrici prossimi alla soglia di criticità. Non pensate oggi di andare al cinema o a teatro, i lavoratori dello spettacolo sono in piazza, Italia la cultura dicono non sono solo Pompei. Torniamo allora a Roma da Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno Anna, proprio così, oggi è tutto chiuso, sale da concerto, cinema, teatri, circhi, feste cinematografici, registi, produttori, attori si mobilitano contro i tagli della finanziaria alla cultura, contro il mancato rinnovo degli sgravi fiscali per il cinema e contro il tracollo del Fondo Unico per lo Spettacolo, il contributo statale attualmente ridotto a 288 milioni di euro. Qui al Cinema Adriano di Roma è in corso un'assemblea di protesta alla quale partecipano circa 2.000 lavoratori dello spettacolo, atmosfera riscaldata, sale grimite, interventi polemici contro il governo. Sentiamo l'attore Ennio Fantastichini. Visto che questo magnifico governo ha deciso di distruggere la cultura in un paese che ha la più alta concentrazione di opere d'arte del mondo, mentre invece aumentano i fondi per le cerimonie istituzionali, che rimane, non so, una sorta di postulato oscuro. Che vuol dire cerimonie istituzionali? I Mercedes e portare pischelle? Cioè, questa è la domanda. E speriamo tutti che il signor Bondi vada a casa, che sarebbe ora, vista la sua totale incompetenza, perché l'ultimo messaggio che ci ha mandato la sera del tappeto rosso ha detto che la serata è una manifestazione impropria e fatta da persone che nulla avevano a che vedere con la cultura del paese. La domanda che gli rivolgo è questa: lei invece ha qualcosa a che vedere con la cultura del paese? E intanto proprio in queste ore arriva una risposta del ministro Bondi: comprendo le ragioni della protesta e prometto una soluzione entro l'anno, dice. E a questo punto c'è solo da capire se dalle parole si potrà passare tanti. Per Roma è tutta quella linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Allarme terrorismo in Germania, questa mattina è scattata l'allerta. Saranno anche solo falsi allarmi, ma la tensione, almeno a Berlino, si tocca con mano. Da giorni nelle stazioni delle metropolitane si susseguono gli avvisi che invitano a fare attenzione a oggetti o bagagli abbandonati. In tutte le piazze più centrali della capitale non manca la polizia. La settimana scorsa il ministro degli Interni ha deciso di innalzare il livello di allarme terrorismo senza dare troppi dettagli. Oggi è stata chiusa ai visitatori la cupola del Reichstag. La sede del Parlamento, secondo indiscrezioni di stampa circolate durante il fine settimana, è nel mirino di Al-Qaeda. Tutta la zona è stata transennata e viene controllata dagli agenti. Sempre oggi, ma più a sud, vicino Lipsia, con una telefonata anonima degli sconosciuti hanno annunciato la presenza di una bomba in una scuola di Jena. Un allarme è risultato poi infondato, che ha spinto però le autorità scolastiche a evacuare tutti gli studenti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima delle altre notizie anticipiamo un po' la pagina sportiva. Fiducia all'allenatore Rafa Benitez? Sì, risponde questa mattina il presidente Massimo Moratti, ma dell'Inter di un anno fa sembra restare ben poco e sul futuro di Benitez è difficile scommettere. Noi parliamo dopo ogni partita, parliamo tutti dello che abbiamo visto e siamo tutti d'accordo che la squadra deve vincere questo tipo di partite perché è una squadra che è forte, ma oggi abbiamo visto una squadra che voleva, che aveva la voglia di vincere. Povero, si fa per dire, Rafa Benitez. Altro che voglia di vincere, finché parla come un prete nel confessionale, mai potrà risollevare l'Inter del triplete. Al di là degli infortuni, che sono tanti, e dei punti che sono pochi, 12 meno dell'anno scorso, 9 meno del Milan, il problema di Benitez è che mai riempirà il vuoto lasciato da Mourinho. Occhi da tigre e occhi da cerbiatto. La differenza sta tutta qui. E male ha fatto Moratti, dopo un Lucifero come Mourinho, a sostituirlo con un angelo senza spada come Rafa. Leonardo, Capello, Spalletti, siamo già al toto allenatore, anche se per il momento Moratti copre Benitez con una fragile fiducia d'ufficio, sperando che mercoledì il Twente non diventi un'altra trappola. Ma la fiducia più profonda, ammesso che ci sia mai stata, si è già spezzata. Bisognava pensarci prima. Chi troppo in alto sale, precipitevolmente cade, ma di maghi della caduta sulla piazza non se ne vedono. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le 13 e 15 minuti, le notizie di oggi di GR24, il gelo del Quirinale, mai ricevuto il decreto per Napoli. Oggi gli ispettori europei troveranno per le vie della città 3.000 tonnellate di rifiuti. I finiani sfidano il Premier, non può usare il simbolo del PDL. Allarme terrorismo in Germania, chiusa la cupola del Parlamento, l'OCSE in frenata la crescita e l'Europa spera nel salvataggio dell'Irlanda. E noi ripartiamo proprio da qui. L'Irlanda non è in fallimento, assicura il ministro delle finanze irlandese all'indomani del via libera al piano di salvataggio. Antonio Pollio Salimbeni sta andando a Strasburgo, dove nel pomeriggio parlerà il presidente della BCE Jean-Claude Trichet davanti all'Europarlamento. Cosa si prospetta allora? Tutto risolto, buongiorno. Buongiorno a voi. Tutto risolto lo vedremo, ma in ogni caso le basi per una soluzione duratura almeno nel breve medio periodo c'è. Naturalmente sappiamo che la questione più difficile per l'Irlanda è la ristrutturazione del sistema bancario. Qui sono legate naturalmente le sorti anche di una parte degli impegni a rischio delle banche tedesche, francesi e naturalmente britanniche, ed è per questo che al salvataggio parteciperà anche il Regno Unito. C'è un'altra questione ed è quella del Portogallo. Con l'Irlanda, dopo la Grecia, dopo l'Irlanda abbiamo chiuso o dovremo a questo punto salvare qualcun altro? Ci ha abbandonato Antonio Pollio Salimbeni. La linea è difficile, dicevamo, sta andando a Strasburgo, dove il pomeriggio parlerà il presidente della BCE, Trichet, e allora sentiremo anche qui quali saranno le prospettive. Intanto però qualche dato numerico arriva dall'OCSE, rallenta la crescita dei paesi dell'area OCSE nel terzo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti. Il PIL è aumentato dello 0,6% contro il più 0,9% del secondo trimestre. Questi i dati pubblicati questa mattina. Sebbene in frenata, dice comunque l'OCSE, si tratta comunque della sesta crescita trimestrale consecutiva. Per quanto riguarda in Italia, la crescita ha registrato un rallentamento, si passa dallo 0,5% del secondo trimestre al più 0,2% nel terzo trimestre. E a presentare i dati oggi Federmeccanica, illustra la sua indagine conoscitiva sull'industria metalmeccanica. Allora salutiamo Andrea Viali. Dal settore metalmeccanico arrivano segnali di una timida ripresa. Nel terzo trimestre del 2010 la produzione è cresciuta del 3,1% rispetto al trimestre precedente e del 9,8% rispetto allo stesso trimestre del 2009. I volumi di produzione sono però ancora inferiori del 25% rispetto a quelli del periodo prima della crisi. Nei primi 9 mesi dell'anno i volumi sono cresciuti del 9% in Italia, mentre la media europea si attesta al 10,1% grazie soprattutto alla Germania. Sull'andamento del settore nel nostro paese hanno inciso positivamente gli incentivi della Tremonti TAR, che però sono terminati a giugno, ma anche il buon andamento delle esportazioni, in calo infine l'occupazione che nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500 addetti ha segnato ad agosto una flessione del 2,4%. Per ora è tutto. Venti di ripresa. L'Italia che riparte. L'anno scorso abbiamo subito purtroppo una perdita più o meno del 5%, quest'anno invece siamo più 19%. Norberto Panseri è titolare della Panseri Carlo SRL di Biassono, provincia di Monza. L'azienda produce apparecchi per illuminazione, ha 35 dipendenti e 2 magazzini automatizzati, grazie ai quali può soddisfare le richieste dei clienti in modo preciso e rapido. Esporta in 42 paesi in tutto il mondo. Ecco come l'azienda è uscita da un momento difficile. Ancora Panseri. Ci siamo dati da fare a fare dei nuovi modelli utilizzando materiali diversi come tessuti, come gesso, come l'acciaio. Ci siamo avvalsi anche dall'aiuto di un paio di designer di buon livello qualitativo e professionale e ci siamo dati da fare a spingere soprattutto con le reti di vendita. Per dire una cosa semplice, avevamo una grande distribuzione in America. Abbiamo sostituito l'America con la Russia e questo ci ha permesso almeno di acquisire qualche punto percentuale in più. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Scuola, pagare di più gli insegnanti più bravi è un criterio giusto? Questa è la domanda che vi abbiamo rivolto questa mattina nel nostro sondaggio. Gli ascoltatori di Radio 24 hanno risposto così: sì, il 51%, no, il 49%. Intanto c'è un altro tema che fa discutere, le parole del Papa sul preservativo. Nel libro Intervista la luce del mondo, in uscita domani, Benedetto XVI dice: vi possono essere singoli casi giustificati, ad esempio quando una prostituta utilizza un profilattico. Padre Lombardi, il portavoce vaticano, avverte: l'apertura del Papa non riforma né cambia l'insegnamento della Chiesa. Roberta Pellegatta ha chiesto qual è la portata delle parole del pontefice a padre Bernardino Prella, che è teologo morale. La novità è che il Papa abbia usato questo termine, e direi quasi in termini in cui sottolineava delle possibilità positive. Questa mi sembra un ribadire, un'apertura. I papi precedenti non avrebbero mai usato il termine profilattica, insomma. Il Papa sottolinea in qualche modo la non colpevolezza e anzi un inizio di sviluppo, di moralizzazione in uno stato soggettivo, senza voler fare delle affermazioni oggettive. In questo caso l'uso del profilattico è un uso che indica questo sviluppo di maggiore responsabilità. Mi permetto di fare degli esempi. Il Magistero della Chiesa ha sempre ribadito l'illiceità della contraccezione, però durante la rivoluzione congolese si era avallato che le suore potessero prendere delle pillole contraccettive perché nella violenza che potevano subire non potessero essere messe incinte. La cronaca, c'è una notizia degli ultimi minuti: la scarcerazione di Michele Misseri potrebbe essere una questione di giorni. Il suo avvocato dovrebbe depositare a breve nella cancelleria del tribunale la richiesta di scarcerazione per il suo assistito, per sostituirla con la misura degli arresti domiciliari, una decisione che sarebbe maturata dopo l'incidente probatorio durante il quale Misseri ha rivelato di non aver assassinato la nipote Sara Scazzi e di non aver abusato del corpo. Resterebbe in piedi per lui quindi solo l'accusa di occultamento di cadavere. La cura dei figli tra i motivi del legittimo impedimento e quanto chiedono le donne avvocato, ormai quasi la metà della categoria. Insomma, se devono allattare o hanno appena partorito, si sospendano le udienze. Giorgia Fantini, vicepresidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano, al microfono di Maria Piera Ceci. Nella pratica chiediamo che sostanzialmente lo stato di gravidanza, maternità e paternità sia considerato un motivo di impedimento a comparire a tutte le udienze in cui la presenza dell'avvocato è fondamentale, indispensabile. Quanto hai sentito il problema all'interno della categoria? Beh, cioè oggi come oggi le donne fanno di tutto per cercare comunque di comparire, magari anche bypassando invece altre necessità. Ha una storia alle spalle anche lei di questo genere? Beh, vari figli che mi hanno imposto di fare i salti mortali, sicuramente. Effettivamente, ben mi ricordo che cosa ho dovuto fare, addirittura quando ero in fase di allattamento, portarne il bambino allattando nei dintorni del tribunale per essere sicura di poter assolvere al mio dovere di mamma e anche al mio dovere di avvocato. Notizia di questi istanti, vi dicevamo l'allerta per il Tevere. Ebbene, il Tevere è uscito dagli argini poco fa tra Orte, Gallese, Scalo in provincia di Viterbo. Allagamenti si sono verificati anche sulla costa, Montalto Marina, il fiume ha invaso numerosi ettari di terreno arrivando a lambire alcune abitazioni, alcune persone sono rimaste bloccate in casa. La protezione civile della regione Lazio dà il livello a 6,40 metri all'idrometro di Orte. Resta dunque l'allerta, continueremo a tenervi aggiornati. 30 anni fa il terremoto dell'Irpinia, il 23 novembre 1980 una scossa del 9° grado della scala Mercalli uccise quasi 3.000 persone. Simbolo fu Sant'Angelo dei Lombardi, il comune con più vittime. Oggi rischiamo lo spopolamento, dice il sindaco Michele Forte. I primi ad accorgersene furono i cani. Poi, quando i boati squarciarono la terra e le scosse sgretolarono interi paesi, nulla sarebbe stato più come prima. 23 novembre 1980, 1:20 durò il terremoto del 9° grado della scala Mercalli che uccise 2.735 persone tra Campania e Basilicata. A Balvano una chiesa crollò su 77 fedeli, a Sant'Angelo dei Lombardi, Irpinia, sotto quelle macerie fu sepolta un'intera generazione. Una motoretta con i morti messi sopra, 3, 4, 5, 8 distesi, arrivava giù al cimitero, li depositava e tornava nel centro del paese. Michele Forte è il sindaco di quella che fu ribattezzata la capitale del sisma. 30 anni fa anche lui con i chiodi scriveva sulle bare i nomi dei morti, 600 sepolti in un'unica fossa comune. Sua moglie e sua figlia furono estratte vive dopo più di un giorno, ma per molti non andò così e quei gemiti sotto cumuli di pietre divennero un atto d'accusa per un'Italia che non seppe soccorrere l'Irpinia. Ci sono ancora centinaia e centinaia di cadaveri da tirare fuori, ma perché non vengono queste autorità italiane? Fate presto, titolò il Mattino, ma presto non fu e il capo dello Stato, Sandro Pertini, accusò pubblicamente il governo. Non vi sono stati i soccorsi immediati. Ancora dalle macerie si levavano grida di disperazione di sepolti vivi. Nacque allora la protezione civile e arrivarono fiumi di soldi, 14.000 miliardi di lire per la ricostruzione. Ma il sisma divenne l'affare d'oro per la camorra, mentre molte famiglie vissero per anni nei container. Quelle case crollate, case di gente che a fatica era rimasta nella propria terra, segnarono anche l'inizio di una nuova emigrazione. In Irpinia, da allora, il tempo è scandito da un prima e dopo terremoto. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Si chiude oggi la 9ª edizione della Settimana della Cultura d'Impresa. Per l'occasione la Fondazione ISEC, l'Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea di Sesto San Giovanni alle Porte di Milano, dedica una giornata alla memoria dei piccoli, ovvero ai problemi di tutela, riordino e valorizzazione degli archivi delle piccole imprese. Giorgio Bigatti, vice direttore della Fondazione ISEC, al microfono di Adriana Fracchia. Perché la piccola? Perché la piccola rappresenta un elemento di straordinaria importanza e vitalità per l'economia italiana e per la prima volta si cerca di affrontare da un punto di vista strutturale il problema di come si conserva la memoria di imprese piccole che proprio per essere piccole e così vitali rischiano però anche di non dare l'adeguata attenzione alla conservazione della propria memoria. L'idea è di impostare il lavoro come si è fatto nel caso della grande impresa. In fondo 20-30 anni fa poco si sapeva degli archivi delle imprese e allora il primo passo è stato una sorta di indagine, di censimento. Sulla base dei censimenti si è, come dire, scoperto la rilevanza e le dimensioni di un patrimonio che non era conosciuto e si è cominciato a porsi il problema da una parte della conservazione e dall'altra conservazione deve accompagnarsi a valorizzazione, messa a disposizione degli altri di questo patrimonio. Con la piccola impresa è necessario procedere in una maniera analoga, che sia una frontiera su cui nei prossimi anni si giocherà il problema della memoria, della cultura del lavoro e dell'industria in Italia. Ha cominciato a parlare un istante fa a Cernobbio Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria. Chi ha la possibilità, la capacità, è giusto che parta prima nell'applicazione del federalismo. Così poco fa Emma Marcegaglia, la Lombardia è pronta, ha detto, stare fermi ad aspettare chi è indietro, una politica suicida per tutti. Da Cernobbio torneremo nella prossima edizione di GR24 alle 14, allora con tutti gli aggiornamenti. Nel frattempo invece ci fermiamo qui, in regia Fabio Cantadori, ancora una buona giornata da Andami migliorati. GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.